L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Parliamo di due appuntamenti particolarmente interessanti e anche idealmente collegati. Uno si terrà la prossima settimana, l'altro invece si è appena svolto. Entrambi lanciano ponti sul futuro, in particolare sulla sostenibilità del nostro vivere in città e più in generale sul pianeta. Cominciamo dall'appuntamento che si terrà la prossima settimana a Bologna. Dal 22 al 24 di ottobre c'è Smart City Exhibition, una manifestazione che vuole proporre una visione nuova del concetto stesso di città. Per parlarcene c'è con noi Gianni Dominici, organizzatore della manifestazione. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, cominciamo con il capire qual è il motivo ispiratore di fondo di questa manifestazione, che porta sì un nome diciamo tecnologico, no? Le smart city ormai le leghiamo automaticamente alla tecnologia, all'innovazione, ma che in realtà ha molto a che vedere con la sostenibilità della vita umana, che abbia una precedenza diciamo sulle tecnologie. Però appunto lascio a lei lo spazio per spiegare di che si tratta. Esattamente questo, noi consideriamo le nuove tecnologie uno strumento formidabile per facilitare alcuni processi, ma non sono un fine, cioè come si dice spesso non è che un lampione intelligente fa una città intelligente. Quello che caratterizza questo nuovo approccio è pensare invece a una città che ha un nuovo rapporto con il cittadino, un nuovo rapporto con il territorio e che va a esplorare dei nuovi modelli di gestione delle risorse. Noi diamo molto spazio ai temi quali l'open data, ai temi quali la sharing economy, ai temi quali la cittadinanza attiva, perché appunto un nuovo progetto di città è un nuovo progetto di città condivisa. Non ci dobbiamo immaginare da una parte chi governa e dall'altra i cittadini, che secondo i casi sono trattati come utenti, come pazienti, come assistiti. No, ci dobbiamo immaginare, ed è quella per noi la Smart Cities, una città che invece insieme ai cittadini, insieme al territorio, esprime un progetto. Io le chiedo di sciogliere, se possibile, alcune parole straniere che usiamo ormai abitualmente, ma magari non sono chiare per tutti. Open data, che cos'è? Sharing economy ce l'ha già detto in pratica, perché ha parlato di condivisione, ma open data? Ci torno. Open data è questo nuovo movimento, ormai di 5-6 anni, che come al solito è partito dagli Stati Uniti, che richiede che i dati gestiti dalle pubbliche amministrazioni sui servizi, sui dati di, per esempio, di natura economica, vengano liberati, cioè vengono messi a disposizione dei cittadini, delle associazioni, dei giornalisti, eccetera. Faccio un piccolo esempio: una piccola associazione che si chiama Open Polis, una non profit, ha messo su da poche settimane un portale e quindi un sito internet dove vengono pubblicati tutti i bilanci dei comuni italiani. Si chiama Open Bilanci e il cittadino può attraverso questo portale vedere quanto spende il proprio comune, ad esempio, che ne so, per lo sport, per la cultura, per i servizi sociali. Quindi Open Data dice: liberare i dati che la pubblica amministrazione ha, perché i cittadini stessi, le associazioni, le imprese, quei dati creano valore aggiunto e magari fa crescere qualche piccola start-up, qualche nuova impresa che attraverso quei dati trova una soluzione, trova un servizio, eccetera. La sharing economy, quindi qui parliamo di condivisione, che cosa si condivide in una smart city come quella che diciamo si propone a Bologna? È evidente che fa riferimento a un modello in questo momento in difficoltà, no? Questo modello del possesso, per cui invece la sharing economy dice: ottimizziamo le risorse. L'esempio più semplice è quello del car sharing, e cioè delle automobili condivise nelle città. In questo momento sono mi sembra 3 le città italiane, Milano, Roma e Firenze, dove ci sono già esperimenti e servizi molto avanzati. Questa logica della condivisione delle risorse può essere ed è applicata in tante forme, per esempio, adesso non per fare pubblicità, ma il portale che permette condividere una stanza quando non la usiamo, no? Questo grande portale per cui i turisti, piuttosto che andare in albergo, vanno in una stanza che noi mettiamo sul mercato e la condividiamo a un determinato prezzo. C'è un'esperienza di co-working, per cui ragazzi che si stanno mettendo al mondo del lavoro, piuttosto che lavorare isolati a casa, lavorano in un ufficio dove condividono risorse, computer, stampanti, connettività, quindi il co-working. ci sono delle esperienze di co-housing, per cui soprattutto immaginiamoci nelle grandi città qual è il problema, ad esempio, dell'accesso alla residenza per gli studenti, no? Che tutto legato al mercato privato, gestito in un certo modo, diciamo. Invece esperienze di co-housing, fino ad arrivare ad esempio anche a tutte le nuove esperienze che ci sono sulla produzione di cibo, per cui alimenti e produzione di cibo, per cui ci sono nuove esperienze di orti urbani, per cui i terreni pubblici o privati non utilizzati vengono dati in gestione a coloro che li utilizzano per produrre un orto, quindi per organizzare e gestire un orto. Ma le esperienze sono tantissime, ad esempio chi mette a disposizione delle proprie competenze. Io sono bravo in falegnameria e quindi il sabato e la domenica faccio dei piccoli lavoretti, c'è un portale proprio su questo. Certo, e tra l'altro lei ha dato risposta a una domanda che mi ronzava, diciamo, in testa nel parlare appunto di condivisione, cioè condividere, se da una parte ovviamente fa bene all'ambiente, fa bene alle tasche del cittadino, eccetera eccetera, fa un po' male al PIL probabilmente, no? Perché si comprano meno auto, eccetera eccetera, però si dà in realtà il via a un motore che crea reddito, che crea crescita, la famigerata crescita altrove, semplicemente. Guardi, si sposta. Esattamente come dice lei, ad esempio torniamo al car sharing, sicuramente comunque sono imprese economiche quelle che mettono a disposizione le auto. Detto questo, sai, il PIL è qualcosa di strano. Una città come Roma, che è una città che è nota le difficoltà che ci sono di movimento, è confermato da diverse ricerche che se si diminuisse il traffico, la produttività economica crescerebbe di qualcosa a 2-0, 10-15%. Quindi, insomma, voglio dire, sono fenomeni in sistemi complessi come quelli urbani, che se magari vendiamo meno auto ma produciamo molto di più altri servizi, no? Sono sistemi complessi e articolati. Allora, noi ci fermiamo perché il tempo a nostra disposizione è concluso, però ricordiamo, no? A Bologna c'è tutto per farsi un'idea e per cominciare magari ad avviare certe esperienze anche nelle proprie città, sulla base delle esperienze che appunto si possono vedere in questa manifestazione dal 22 al 24 di ottobre. Grazie, grazie davvero a Gianni Dominici. Grazie a voi, ci vediamo a Bologna per chi può. L'altro pianeta. Ancora ben ritrovati da Laura Bettini da Bologna in questa seconda parte della puntata. Torniamo a Milano per il secondo evento di cui parliamo oggi. La riunione operativa degli esperti di vari settori riuniti dalla Fondazione Barilla per mettere a punto la stesura finale del protocollo di Milano. Che cos'è? L'abbiamo chiesto a Carlo Alberto Pratesi, coordinatore dei lavori di questi esperti. Il protocollo di Milano ha evidentemente un obiettivo nell'ambito alimentare, in particolare sono tre gli obiettivi sui quali il protocollo di Milano porta l'attenzione. Il primo è quello del food waste, quindi dello spreco di cibo, un dato allarmante che nel mondo circa il 30% di ciò che viene coltivato poi di fatto finisce nella discarica, o viene sprecato sui campi o buttato a casa, non mangiato, non consumato nei piatti o perso magari durante la distribuzione. Ecco, questo 30% è considerato una quantità insostenibile, non solo perché è tutto cibo che potrebbe andare alle persone che ne hanno bisogno, ma anche perché per produrlo si sono usate delle risorse, l'acqua, terreno, e per smaltirlo se ne bruciano altre di risorse. Quindi è un tema complesso, anche perché lo spreco per certi versi favorisce il PIL, perché più si spreca più si compra più l'economia cresce, e noi vorremmo invece che avvenisse esattamente il contrario, per cui ci sono una serie di situazioni controverse che non è facile da gestire. Certo, la seconda obiettivo, quindi il secondo campo nel quale il protocollo di Milano attira l'attenzione, è quello dell'agricoltura sostenibile. Negli ultimi decenni si è investito moltissimo per rendere molto produttiva l'agricoltura. La preoccupazione era di trovare e produrre cibo a sufficienza per una popolazione che cresce, e l'ingresso della tecnologia, della chimica, dei fertilizzanti e diserbanti ha favorito moltissimo la produttività. Quindi quello che si produce oggi in un campo è molto maggiore a quello che si produceva 50 anni fa. però ha portato anche degli svantaggi. Gli svantaggi è che appunto la chimica in agricoltura ha avuto degli impatti negativi sui terreni che si sono nel tempo un po' degradati, e per certi versi anche sulla biodiversità, perché si sono poi coltivate solo alcune specie su grandissimi appezzamenti, invece che magari mantenere diverse qualità, non so, nel campo della frutta, degli ortaggi, delle verdure. C'è stata una concentrazione su poche specie, perché da un punto di vista economico conviene coltivare su grandissimi appezzamenti soltanto una specie, piuttosto che fare tante, una varietà diciamo di prodotto, piuttosto che fare tanti diversi campi con tante diverse varietà. Ecco, questa agricoltura, chiamiamola così, intensiva e industriale, oggi è arrivata al punto da dover essere messa in discussione, e il concetto di agricoltura sostenibile ci porta proprio a pensare a delle soluzioni alternative, che non sono necessariamente il tornare completamente al passato, anche se alcuni aspetti del passato ci piacciono, per esempio la rotazione delle coltivazioni durante l'anno o di anno in anno, in modo che uno stesso terreno non venga completamente, diciamo, è stato prosciugato per produrre sempre lo stesso tipo di varietà, che poi obbliga a usare fertilizzanti e quant'altro, quindi una rotazione. Ma in altri campi invece anche attraverso tecnologie, per cui l'agricoltura sostenibile non vuol dire soltanto riutilizzare le cose del passato che funzionavano, ma anche portare sul campo delle tecnologie, come per esempio dei sensori che ci consentono di capire quando è il momento di irrigare o di usare dei prodotti e quando invece no. Cioè, senza l'agricoltura sostenibile, è quell'agricoltura che può essere protratta nel tempo senza danneggiare le persone, le comunità locali che vivono attorno ai campi e i campi stessi. Quindi sostenibilità nel senso di durabilità. L'agricoltura, questo obiettivo del Milan Protocol, è quello che da un lato è il più antico, cioè il problema della fame, quindi riuscire a risolvere non tanto e non solo la fame, ma tutto quello che viene considerato malnutrition, cioè la errata nutrizione, che può avere al proprio interno due categorie. Una è la undernutrition, cioè quelli che non mangiano a sufficienza o comunque non mangiano in maniera sufficiente alcuni, esatto, in maniera nutriente, perché uno può anche dire: ma no, quella persona non sta morendo di fame, salvo che mangia tutti i giorni soltanto, non so, cereali e riso. Chiaramente quella è comunque una malnutrition e porta a delle conseguenze salutari, nella salute molto, molto gravi. Ma poi c'è l'altro campo, che invece è molto più recente come problema, che è quello della overnutrition, cioè di persone che mangiano troppo, e anche quelli in maniera squilibrato. A fronte di circa 800-900 milioni di persone sottonutrite, ne abbiamo molte più di un miliardo che sono sovranutrite. E questo purtroppo è un problema quasi altrettanto grave, perché ha degli impatti anche questo sulla salute, ha degli impatti sull'economia, ha degli impatti sulla società, e sul quale occorre intervenire. Evidentemente gli strumenti sono diversi. Nel caso della obesità o del sovrappeso dovuto alla nutrizione, bisogna lavorare molto sia sulla educazione, che purtroppo non è un problema anche dello stile di vita. I bambini di oggi si muovono di meno, per cui mangiano di più prodotti più calorici, in più si muovono di meno, ecco lì che il tasso di obesità, specialmente in alcuni paesi tra i bambini, è molto cresciuto. E l'Italia, che doveva essere famosa per la dieta mediterranea e quindi per un equilibrio nutrizionale molto corretto, di fatto sta velocemente peggiorando la situazione. Ci sono delle regioni italiane in cui i bambini sono più obesi che negli Stati Uniti, semplicemente perché mangiano. I tre pilastri sul quale si basa il protocollo di Milano sono lo spreco di cibo, l'agricoltura sostenibile e il tema della promozione dei stili di vita sani, cibo sano, e comunque anche per chi il cibo proprio non ce l'ha e quindi deve in qualche modo essere, bisogna rendergli possibile l'accesso al cibo. Quindi l'idea è di stilare un documento in cui ci si sofferma, diciamo, su ciascuno di questi tre pilastri e portarlo a Expo, in modo che là possa essere così condiviso con i capi di Stato e di Governo, comunque con tutti i paesi che parteciperanno? Sì, diciamo che una bozza del documento è già pronta ed è anche in qualche modo è quella su cui noi stiamo lavorando. L'incontro di oggi qui a Milano è proprio per discutere con gli esperti e coloro che già sono interessati a essere coinvolti nel processo, discutere come migliorarlo per dare una versione, diciamo, definitiva. La versione definitiva verrà presentata al forum BCFN di dicembre 2014, quindi tra poco, e poi verrà promossa durante tutta la durata di Expo, per poi avere un momento finale in cui effettivamente ci auguriamo tutti i potenti della terra lo andranno a firmare, che sarà alla fine di Expo, quindi esattamente tra un anno. Quindi tra un anno noi avremo non solo un documento definitivo condiviso e costruito con la partecipazione di molti esperti da vari paesi, ma avremo anche i policy maker, cioè quelli che potrebbero agire per fare qualcosa, che lo avranno, ci auguriamo, sottoscritto numerosi, e quindi diventerà un percorso che chiaramente non finisce con Expo, ma inizia con Expo, perché sarà il momento in cui poi queste cose andranno messe a essere realizzate. Un po' a differenza del protocollo di Kyoto, ci auguriamo che poi possa avere frutti in tempi un po' più rapidi, forse, perché il protocollo di Kyoto poi dopo è partito bene, ma poi sappiamo come siamo messi adesso, quindi si è un po' arenato. Lì come pensate poi di affiancare anche chi si impegnerà con la sottoscrizione di questo protocollo? Certo, ci rendiamo conto che l'esperienza del protocollo di Kyoto, per quanto utile, non ha raggiunto certamente i risultati che si sperava. Il vantaggio del nostro rispetto a quello è che, parlando di cibo e di alimentazione, vorrei dire, è un tipo di tema sul quale le persone sono un pochino più disponibili a impegnarsi. Cioè è un argomento meno ostico e forse anche meno punitivo rispetto all'altro, perché noi in fondo una buona parte di ciò che proponiamo ha dei diretti ritorni sulla salute, sull'economia anche delle famiglie, per cui ci auguriamo che il coinvolgimento sia più facile. Di certo la fase di promozione e di diffusione sarà molto importante. Ci sono già dei progetti che noi stiamo facendo, programmando nelle scuole, e c'è una parte della nostra, diciamo, fondazione, cioè la BCFN, che si occupa del coinvolgimento di giovani nelle università. BCFN Yes è un concorso tra ricercatori e studenti universitari di tutto il mondo, ai quali si chiede di proporre soluzioni ai temi del cibo e della sostenibilità nel campo agroalimentare. Questo 2015 sarà il quarto anno nel quale lanceremo questa call, e devo dire che negli anni passati abbiamo ottenuto dei progetti interessantissimi, non soltanto per il tipo di soluzioni proposte, ma anche per il fatto che abbiamo scoperto che i giovani di oggi, e per giovani in questo momento intendo, diciamo, tra i 20 e i 30 anni, in Italia vale tutto, vale tutto, tra i 20 e i 30 anni hanno un interesse su questi temi che assolutamente non è confrontabile con quello che avevano le generazioni precedenti. Oggi un'opportunità di diffusione del sapere, insomma, parli prima delle tecnologie, stare anche da lì in un altro modo, però non nel modo attuale, quindi direi che ci sono un po' tutti i temi della crescita, della sostenibilità. Ci sono senz'altro. Forse la prima informazione che molti non hanno è che il cibo rappresenta la seconda causa al mondo di riscaldamento globale, quindi produzione CO2. Ricordiamo, la prima è il riscaldamento delle abitazioni, la seconda è il cibo e il terzo è il trasporto. Quando noi usiamo la macchina, un pochino siamo consapevoli di fare qualcosa che ha un effetto negativo, e così forse quando alziamo troppo il riscaldamento in casa. Sul cibo invece questo collegamento non viene fatto, quindi il cibo è importante non solo perché è la base della vita e non solo perché dal punto di vista economico è uno dei settori chiaramente trainanti di tutte le economie, ma anche perché, se gestito male, è quello che ci porta verso il riscaldamento globale, quindi verso, diciamo, il collasso del nostro sistema. Ci fermiamo qui. Grazie a Carlo Alberto Pratesi, ricordo, coordinatore dei lavori della Fondazione Barilla per la stesura del protocollo di Milano in vista dell'Expo 2015. L'altro pianeta torna la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.